PDL Lega c'è l'accordo, Berlusconi se vinciamo farò il ministro dell'economia. Razzismo negli stadi, il ministro cancellerà Radio 24, se in pochi a fischiare la partita non si interrompe. Air France, nessun interesse per l'Italia, i francesi smentiscono, trattative in corso. Sequestro lampo per 4 giornalisti italiani in Libano, fermati insieme ai caschi blu. Buongiorno dalla redazione, ancora buona giornata da Anna Migliorati. La politica dunque in primo piano anche oggi, perché la notte ha sciolto le riserve per il PDL. L'accordo con la Lega c'è per le politiche e anche per la Lombardia, dunque cambiano e di molto gli scenari. E allora sentiamo com'è andata questa lunga notte, Elisabetta Fiorito. Sì, proprio così, Anna, alla fine Silvio Berlusconi ce l'ha fatta a stringere l'accordo con la Lega dopo il no iniziale di Roberto Maroni, che contestava la candidatura del Cavaliere a Palazzo Chigi. Così è lo stesso Berlusconi ad Arcore ad indicare una via d'uscita che porta all'1:30 di notte all'accordo. Roberto Maroni correrà come candidato governatore in Lombardia, intesa sulle politiche, ma Berlusconi declina per il momento la scelta del Premier e si ritaglia quella del Ministro dell'Economia qualora la coalizione di centrodestra dovesse vincere le elezioni. A Palazzo Chigi in quel caso andrebbe Angelino Alfano, anche se questa condizione non è scritta nell'accordo con la Lega, ma si deciderà solo in caso di vittoria. E dopo le elezioni il Cavaliere continua poi a bocciare Mario Monti, un giudizio molto negativo: nell'anno di governo non ha prodotto nessuna riforma necessaria, tutti gli indicatori economici sono negativi, immorale poi la sua candidatura a premiership. Apertura invece sulle coppie gay, a sorpresa il Cavaliere apre al riconoscimento per l'unione di fatto, ma serve la maggioranza in Parlamento per cambiare il codice civile, una scelta di smarcamento dall'asse col Vaticano che sembra preferire Monti. No a Corrado Passera come possibile candidato di centrodestra, mentre il Cavaliere assicura che già da stasera si prepareranno le liste. Per il momento qui da Roma è tutto per studio. Il punto di Stefano Folli. Come previsto, alla fine Berlusconi, per avere l'alleanza con la Lega, ha fatto un mezzo passo indietro. È tornato in ballo Alfano come candidato premier e il vecchio leader resta capo politico della coalizione. Basterà questo per frenare i dubbi degli elettori leghisti, che non accettavano l'idea di tornare a stringere patti con l'antico amico e sodale di Bossi? Ma vedremo presto. Certo, Maroni ottiene la Lombardia, una candidatura che peraltro resta in salita, e un prezzo lo paga, perché la campagna elettorale sarà comunque tutta centrata su Berlusconi, la cui personalità è debordante, quale che sia il suo ruolo. In più ci sono i nuovi scandali che toccano il Carroccio e che a un mese dalle elezioni non sono l'ideale. Vedremo presto i nuovi sondaggi. La Lega stava ricostruendo se stessa, adesso è tutto un po' più difficile, ma comunque l'annuncio del mezzo passo indietro berlusconiano è una notizia. Un'alleanza che dicevamo pesa anche nella corsa in Lombardia, dove è candidato Maroni. Nel pomeriggio ci sarà il vertice della Lega a Milano. Intanto però Valentina Furlanetto ha sentito l'altro candidato lombardo dell'area di centrodestra, l'ex sindaco di Milano, Gabriele Albertini. Probabilmente gli avvisi di garanzia che sono arrivati ai senatori leghisti hanno convinto i dirigenti della Lega, molto meno gli elettori, a fare un patto di solidità, chiamiamola così, di seggi, perdendo un pezzo di elettorato. Ma la Lega con questo intervento rischiava di stare sotto il 5% e quindi di non arrivare neanche allo sbarramento per eleggere dei deputati alla Camera. Posso dire che ci sono già delle liste di scissionisti leghisti che si apparenteranno con la mia e quindi diciamo ne vedremo delle belle. Stanno già raccogliendo le firme, tra poco ci saranno i simboli e gli apparentamenti. E sugli altri fronti, altri movimenti, anche il ministro dello sviluppo economico Corrado Passera è sbarcato oggi, come aveva preannunciato su Twitter, con un profilo dal titolo Italia Startup, che ricorda il provvedimento uscito dal suo ministero. Il primo cinguettio è solo un saluto. Passera, che ha parlato invece questa mattina in un'intervista al Corriere della Sera: si è persa una grande occasione, credevo al progetto di una lista unica Monti, dice, sia alla Camera che al Senato avevo dato la mia disponibilità a candidarmi. Passera, voce critica dunque, Monti come si muove, Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Mario Monti, come Silvio Berlusconi, sta continuando la sua personale campagna elettorale tra interviste televisive e radiofoniche, con un argomento tra tutti, quello della pressione fiscale. La ferrea disciplina dell'attenzione alle regole di bilancio portata avanti nell'anno di governo sembra lasciare spazio infatti ad un Monti più flessibile sul fisco, con margini di manovra che fino a qualche settimana fa non sembravano ipotizzabili, di qui l'annuncio del senatore a vita di puntare a modificare l'IMU, di ridurre l'IRPEF e congelare l'IVA. Monti sembra prendere le distanze anche dalla Merkel, preferendo, sembra far intendere, l'endorsement arrivato dal presidente americano Obama. Il leader della neonata Scelta Civica alle prese con frizioni interne, confini e casini sulle liste, con la distanza di Passera ne ha quindi sia per il PDL che per il PD. Monti invita Berlusconi e Bersani a prendere le distanze da quelli che definisce nidi di conservazione che sia a destra che a sinistra impediscono il rinnovamento del paese. Dal Partito Democratico non mancano però le repliche. Al professore, per il responsabile economico del PD Fassina, quelle di Monti sono promesse da campagna elettorale, singolare, si chiede Fassina, prima non c'erano soldi per gli esodati ed ora ci sono per il taglio delle tasse. E da Roma è tutto. E grazie, andiamo invece a Milano, perché a Pesaro in queste ore ci sono anche i guai giudiziari della Lega, indagini a Roma ma anche appunto nel capoluogo lombardo. Raffaella Calandra. Sì, frigoriferi comprati con i soldi del Pirellone, lavatrici e TV con quelli del Senato. Gli elettrodomestici ritornano più volte tra le spese che dovrebbero essere istituzionali dei leghisti, tanto quelli eletti in Regione Lombardia quanto quelli che siedono sugli scranni di Palazzo Madama. Spese che ora il Carroccio deve giustificare nelle inchieste diverse che lo riguardano, ma che hanno un unico filo conduttore e un'unica matrice, quella dei rimborsi e dell'uso dei fondi pubblici. A Cecciale Clodio contano di chiudere già entro la settimana l'inchiesta sull'uso dei 15 milioni gestiti dalla Lega, un'inchiesta partita da qui, da Milano, dall'indagine sull'ex tesoriere Belsito, anch'essa vicina ad una svolta e arricchitasi con le dichiarazioni a verbale dell'ex segretaria del tesoriere Stiffoni, Manuela Privitera, al momento unica indagata trapela da Roma. Gli inquirenti stanno però verificando eventuali profili penali legati alle sue dichiarazioni su quei soldi della partito distribuiti in paghette per i BIC da Bricolo a Calderoli o coperture di carte di credito per l'acquisto, anche denuncia l'ex impiegata del Carroccio di lavatrici e TV. Eppure dell'acquisto di un frigorifero rimborsato con soldi pubblici dovrà invece dare spiegazioni a Milano Renzo Bossi, convocato per giovedì nell'inchiesta sulle spese alla Pirellone. Già oggi qui al Tribunale di Milano sono cominciati gli interrogatori di alcuni dei 37 consiglieri PDL e Lega indagati per quelle spese, e giovedì appunto toccherà al figlio della senatura. E per ora dal Palazzo di Giustizia di Milano è tutto. Grazie anche Raffaella Calandra. C'è anche un altro leghista indagato per tutt'altra vicenda, è Riccardo Grittini ed è responsabile dello sport e delle politiche sociali nella giunta del comune di Corbetta. La Digos e la questura di Varese lo hanno identificato tramite i filmati per gli insulti razzisti contro Boateng. E allora parliamo anche di questo, di razzismo negli stadi. Dopo il caso Milano, oggi a parlare a Radio 24 è stato il ministro cancellieri Dario Ricci. Sì, buongiorno Anna. Calcio e razzismo al centro oggi della riflessione dello sport italiano e anche della puntata odierna di questa mattina di 9 in punto, dopo i fattacci di Busto Arsizio, i cori razzisti contro Boateng e anche i Barbo. Sabato sera, non lo dimentichiamo, all'Olimpico durante Lazio-Cagliari e il Milan che, come ben sapete, ha lasciato il campo nella sfida amichevole contro la Propria Patria. Ebbene, oggi ne abbiamo parlato a 9 in punto con Simone Spezia e i suoi ospiti, in particolare col ministro dell'interno Cancellieri, che ha ribadito misure durissime contro i responsabili ma no alla sospensione arbitraria della gara in caso di cori razzisti, perché la sicurezza viene prima di tutto. Sentiamola. Colpire, individuare chi fa questi cori razzisti, allontanarli dagli altri, essere molto duri nei provvedimenti disciplinari nei loro confronti. È chiaro che se poi c'è invece una reazione razzista da parte di una parte importante della tifoseria, la partita va sospesa, ma quello dovrà farlo comunque chi ha la responsabilità dell'ordine pubblico, perché ci sono poi dei problemi legati al deflusso che vanno gestiti da persone che affrontano il problema con la professionalità dovuta. tolleranza zero invocata anche dal presidente della Federcalcio Giancarlo Abete. Mandiamoli via dagli stati, sono facilmente identificabili. Oggi è facilissimo identificare coloro i quali svolgono le attività improprie negli stati, perché gli stati sono tutti dotati di strumenti di controllo idonei. Che arrivassero le centinaia e le migliaia di DASPO che allontanassero dallo stadio definitivamente o perlomeno per 5 anni coloro i quali pensano di dare luogo alle loro trivialità e alle loro ignoranze. Staremo a vedere, Anna, per il momento è tutto. E grazie Dario. Un'altra inchiesta, questa volta però invece archiviata. Il GIP di Imperia, Massimiliano Botti, ha archiviato le accuse per associazione per delinquere nell'ambito dell'inchiesta, ricorderete, su il porto di Imperia per l'ex ministro Claudio Scajola. A chiedere l'archiviazione era stata la stessa procura il 2 dicembre scorso. Un appello per combattere povertà e disagio sociale, quello che ha fatto il Papa questa mattina del suo discorso al corpo diplomatico. Se nell'attuale crisi economica si combatte lo spread finanziario, bisogna combattere anche quello del benessere sociale e porre freno, ha detto parlando in francese, alle crescenti differenze fra pochi sempre più ricchi e molti irrimediabilmente più poveri. Parole di Benedetto XVI. Voltiamo pagina. Il gruppo franco-olandese Air France non ha iniziato alcuna negoziazione per l'acquisto di tutte o parte delle azioni di Alitalia detenute dai soci italiani. Ad affermarlo questa mattina un portavoce della società, dunque nulla in ballo secondo Air France per Alitalia. E noi vediamo allora anche come va la borsa. Deborah Rosciani. Sì, buongiorno a tutti. Allora, borse europee negative a metà giornata, nonostante il rally del comparto bancario in scia all'alleggerimento deciso ieri degli standard di Basilea 3 che entreranno in vigore a gennaio 2015. Quindi sui mercati prevale la cautela dopo i guadagni della settimana scorsa, quando gli Stati Uniti hanno finalmente trovato un accordo sul fiscal cliff, circostanza che ricorderete aveva messo le ali alle borse nella prima seduta del 2013. Ora l'attesa è per la riunione della Banca Centrale Europea di giovedì e l'avvio domani negli Stati Uniti con Alcoa della stagione delle trimestrali. Ma andiamo a vedere come si comportano le borse europee. C'è un meno 0,58% a Parigi, il listino tedesco Francoforte meno 0,52%, Londra meno 0,32%, Milano perde un po' meno delle altre, meno 0,12%, proprio grazie al volo, letteralmente il volo spiccato dalle banche questa mattina proprio in scia alle notizie relative alle effettiva entrata in vigore delle norme di Basilea 3. La regina della seduta è Monte dei Paschi, più 7,6%, il titolo in avvio ha guadagnato oltre 12 punti, Unicredit più 4,27%, Banco Popolare più 2,64%, Intesa San Paolo più 2,32%, Popolare di Milano più 2%, quindi proprio per le banche l'avvio dell'anno è stato decisamente all'insegna del riscatto dopo invece periodi molto più difficili. Lo spread fra BTP e Bund è leggera risalita rispetto all'ultimo orientamento della fine della settimana scorsa, 278 punti base in questo momento per il differenziale fra Italia e Germania sulla scadenza decennale. E Anna, direi che per ora è tutto. E grazie anche a te, Deborah Rosciani. La cronaca ora: la tragedia del Cermis non si può attribuire all'abuso di alcolici da parte del conducente della motoslitta, ma ad un comportamento imprudente. Sono le prime conclusioni delle indagini condotte dalla Procura di Trento. Il tasso alcolemico dell'alberghiere russo, che era alla guida del mezzo e che risulta l'unico indagato per omicidio colposo plurimo, era, si è appreso questa mattina, di poco superiore al limite consentito, così ha reso noto il procuratore capo di Trento Giuseppe Amato. Due scosse di terremoto sono state registrate nelle ultime ore tra Francia e Italia. L'epicentro, secondo i rilievi dell'Istituto Nazionale di Geofisica, è stato individuato nelle Alpi Cozie. La prima, alle 5:20 di questa mattina, di magnitudo 3.5, è stata avvertita in Costa Azzurra. La seconda, alle 10:10 di questa mattina, ha avuto invece magnitudo 2.1 e avvertita nel Cuneese, dove al momento non ci sono state segnalazioni di danni. Più soldi alle scuole migliori, lo prevede dal 2014 la legge di stabilità varata a Natale. Ora c'è un anno di tempo per individuare i criteri che possono stabilire quali siano però le scuole migliori. Giorgio Rembado, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, al microfono di Maria Piera Ceci. dal punto di vista dei principi è una cosa sacrosanta. Dal punto di vista delle modalità riproduce l'antica questione della valutazione delle scuole. Non basta guardare alle performance in uscita, bisogna guardare a quelle in entrata, perché quello che fa la buona scuola è lo scarto. Più alto è lo scarto tra i risultati in entrata e i risultati in uscita, più buona è la scuola. Perché facciamo l'esempio solito della scuola di eccellenza, un tempo si sarebbe detto del liceo classico, di una grande città. È evidente che se noi valutiamo le performance in uscita della scuola di eccellenza della grande città, meglio se del nord, meglio se del Veneto, non saranno mai paragonabili, saranno sempre di gran lunga superiori ad un istituto professionale della Calabria, faccio per dire. Le notizie in primo piano oggi, PDL e Lega, c'è l'accordo, Berlusconi se vinciamo farò il ministro dell'economia. Razzismo negli stadi, il ministro Cancellieri parla a Radio 24, se in pochi a fischiare dice la partita non si interrompa. Air France, nessun interesse per Alitalia, i francesi smentiscono trattative in corso. Di tutto questo però abbiamo già parlato e allora riprendiamo tornando in qualche modo a parlare di politica, ma su un altro fronte, perché sul Sole 24 Ore di oggi ci sono le pagelle agli amministratori locali. Un crollo netto e quasi generalizzato nella fiducia dei cittadini negli amministratori locali. Rispetto al giorno in cui sono stati eletti, i sindaci perdono in media il 5% dei consensi e i governatori il 3%. A salvarsi è solo un amministratore locale su tre e spesso le dinamiche migliori sono realizzate da chi è stato eletto nelle ultime amministrative e forse sfrutta l'onda lunga della campagna elettorale. La tendenza emerge chiara dalla nuova edizione del Governance Poll, che come ogni anno i PR Marketing realizza per il Sole 24 ore per misurare il consenso di sindaci e presidenti di regione. Tra i primi torna in testa Vincenzo De Luca di Salerno e ottengono buoni risultati Pisapia a Milano, Doria a Genova, oltre al veronese Flavio Tosi. Tra i governatori vince Enrico Rossi della Toscana, mentre l'emiliano Vasco Errani ottiene il miglioramento più netto, 3,9% rispetto al voto. Gianni Trovati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Quattro giornalisti italiani sono stati sequestrati in Libano, circa 5 chilometri dal confine con Israele, in un'area a predominanza Hezbollah, il movimento sciita filo iraniano. Gli inviati erano accompagnati dai caschi blu italiani della forza UNIFIL e sono già stati rilasciati. L'episodio sarebbe avvenuto ieri pomeriggio. I quattro giornalisti sono collaboratori del Resto del Carlino. Restiamo all'estero perché si è aperto un processo in India per una vicenda che ha fatto molto discutere, la studentessa morta dopo la violenza di gruppo, oggi prima udienza, ma subito sospesa per le tensioni. Allora sentiamo che è successo. Prima udienza a porte chiuse oggi pomeriggio a Nuova Delhi per la corte chiamata a giudicare i cinque uomini accusati di aver stuprato e ucciso una studentessa di 23 anni. Un processo a porte chiuse data la delicatezza della vicenda e per evitare le scene di caos che si sono verificate stamani in un'udienza preliminare. A disporlo il giudice che per questo ha deciso di rinviare la seduta al pomeriggio. A causa del clima caotico e del sovraffollamento, la polizia non è infatti riuscita neanche a presentare gli imputati in un'aula colma all'inverosimile di giornalisti e pubblico. I cinque accusati, che rischiano la pena di morte se verranno riconosciuti colpevoli, devono anche rispondere di sequestro di persona, rapina e cospirazione per la violenza commessa il 16 dicembre scorso su un autobus di Nuova Delhi alla studentessa 23enne, morta poi il 29 dicembre in un ospedale di Singapore in seguito alle violenze subite. Un sesto uomo coinvolto nello stupro ha soltanto 17 anni e comparirà dunque davanti ad un tribunale per i minorenni. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Nemmeno il 2013 ha portato la banca dati dei minori adottabili delle coppie disponibili all'adozione in Italia. Avrebbe dovuto essere realizzato entro l'anno scorso a seguito di una sentenza del TAR del Lazio che aveva accolto il ricorso dell'AIBI, l'Associazione Amici dei Bambini. Nemmeno i soldi dovrebbero essere un problema, dice Marco Griffini, presidente di AIBI, al microfono di Laura Bettini. Lì c'è stato un investimento di 800.000 euro due anni fa, proprio perché nella banca dati noi ci stiamo chiedendo che fine abbiano fatto questi 800.000 euro, no? Perché creare la banca dati oggi In Italia è la cosa più semplice di questo mondo, sono solamente 29 terminali che sono i 29 tribunali minorenni. L'impressione è che purtroppo non tutti i tribunali dei minorenni italiani hanno le banche dati, il che la dice lunga allora su come stiamo amministrando in Italia la giustizia minorile. In assenza quindi di questa banca dati non sappiamo nemmeno quanti sono esattamente i minori. Non sappiamo quanti sono e purtroppo tutta la gestione delle adozioni viene fatta solamente a livello periferico, cioè ogni tribunale può gestire solamente i propri casi. Quindi non può intrecciare neanche le domande che provengono da altri luoghi d'Italia? Assolutamente no, se non ci sono le banche dati non capisco come facciano. E poi soprattutto non può essere neanche fatta l'adozione internazionale, perché non potendo sapere se il bambino che viene dichiarato adottabile può essere preso da una coppia italiana, non può assolutamente andare all'estero. Quindi qui c'è una grave violazione dei diritti umani. Parliamo di tecnologia, perché da domani la tecnologia del futuro la vedremo nell'appuntamento di Las Vegas. Domani a Las Vegas apre la più grande fiera al mondo per il mercato dell'elettronica di consumo, il CES, Consumer Electronics Show. Ormai l'unico appuntamento mondiale da cui scaturiscono negli anni fortunati veri e nuovi prodotti, ma quasi sempre almeno i trend che daranno forma al settore nel corso dell'anno. Le tante novità dei recenti anni, eppure la crisi economica mondiale, hanno indubbiamente rallentato l'innovazione. Poco si è visto infatti di veramente rivoluzionario dopo smartphone, tablet e TV piatte. Ma lo spazio per l'evoluzione di questi prodotti è ancora molto ampio. Per le TV da casa, ad esempio, a Las Vegas rivedremo i nuovi televisori con l'eccezionale tecnologia OLED, destinata ad affiancarsi e forse sostituire in pochi anni plasma ed LCD. Molti prototipi si erano visti anche lo scorso anno, ma dopo un ritardo di parecchi mesi, i primi prodotti sono in arrivo nei negozi, almeno in Asia. Nei giganteschi e immensi padiglioni della fiera nel deserto del Nevada, almeno altre due sono le indicazioni da tenere d'occhio. Sempre più sensori faranno parte della nostra vita, saranno connessi ad internet e inevitabilmente al nostro smartphone. Nel settore sanitario e nella domotica, per citare due esempi. L'altro mega trend riguarda l'industria dell'automobile, che sta correndo per trasformare l'abitacolo in un'estensione del mondo digitale al quale tablet e smartphone hanno abituato molti consumatori. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Abbiamo parlato delle polemiche sui campi da calcio, ma c'è anche il calcio giocato. Di certo ieri non sono mancate sorprese, allora saluto Carlo Genta. Ciao Anna, no beh, non sono mancate sorprese, è stata la festa delle sorprese quella della Befana. Anche perché insomma la Juventus, che in 10 perde in casa con la Sampdoria, sembra un'aurora boreale nel cielo di Torino. Appunto, tante sorprese dopo una pausa molto lunga che ha probabilmente rotto il fiato, il ritmo e ha tolto un po' di condizione a qualche squadra. Per prima la Juventus, che ieri ha giocato veramente male, ma questo non deve togliere nulla all'impresa della Doria di Delio Rossi. Il Napoli ha rovesciato tutta la sua rabbia sulla Roma nel posticipo battendolo 4-1. L'Inter, stesso discorso che può essere fatto per la Juventus, si appiglia ad errori arbitrali, però anche stamattina Moratti ha detto: vabbè, come puoi appigliarti a un errore dell'arbitro quando ti asfaltano perdendo 3-0 a Udine. Tra le varie sorprese, la Fiorentina che perde in casa con il Pescara, e finora era inviolato il Franchi di Firenze. La Fiorentina era una delle squadre migliori dal punto di vista del gioco di questo campionato. L'unica che tengono il passo sono il Milan, che non senza fatica batte il Siena, e la Lazio, che è una squadra molto solida, molto quadrata. Nell'anticipo aveva battuto 2-1 il Cagliari, adesso è sola al secondo posto della classifica, a una certa distanza dalla Juventus, perché sono 5 i punti che dividono le due squadre, però in questo momento è la seconda forza del campionato, Anna. E allora ti aspettiamo, come sempre, alle 14. E qualche sorpresa però col nuovo anno ve la facciamo anche noi, perché gennaio porta nuovi programmi a Radio 24, allora ci ripresenta il direttore Fabio Tamburini. Novità nel palinsesto di Radio 24. Prima di tutto è in arrivo un programma di sport e divertimento, Dai e Vai, non è solo calcio. Andrà in onda ogni domenica e sarà un programma di sport e divertimento a tutto campo. Lo condurrà Sergio Ferrentino, ben conosciuto per il successo di programmi come Bar Sport e Cater Sport. Sul fronte della politica, Radio 24 si è attrezzata al meglio per raccontare la prossima campagna elettorale presentando Montecitorio e dintorni, tre domande ai protagonisti della politica, condotto ogni sabato da Elisabetta Fiorito. Alle 15, sempre il sabato, nasce invece il programma di Valentina Furlanetto, Indovina chi viene a cena, da uno storico film del 67 a un programma di cucina in cui l'ospite, un italiano di origine straniera, ripercorrerà la sua storia e proporrà due ricette, una del paese di origine e una del posto in Italia dove vive attualmente. Cambia l'appuntamento con L'altro pianeta di Laura Bettini, che andrà in onda la domenica alle 19:15, continuando a trattare i temi dell'ambiente, mentre durante la settimana parte un nuovo format di Chiedo Asilo ABC, in cui Cappa e Drago spiegheranno in ogni puntata una parola difficile dell'attualità con lo stile ironico che li distingue. Infine, 9 in punto, avrà come conduttore Simone Spezia. Oscar Giannino, promotore del partito Fare, esce di scena per assicurare il rispetto della legge sulla par condicio. Giannino potrà riprendere 9 in punto a partire dal 1 marzo, terminata la campagna elettorale. E Fabio Cantadori in regia, da Anna Migliorati ancora buona giornata. GR24, vi ricordo, torna alle 14. GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.